mi stavo divertendo così, non voleva pazzire. Scaccia portante non usciva di radio, volevo usare il ponte. Coppa i capelli, una volta che ho scaldato il finale, appena appena è partito subito l'avvenza. Sta funzionando, grazie a Dio. Intanto quando fa un bel freddo sto cazzo di difetto adesso, non lo sto facendo in casa. E tu qua ce l'ha acceso, accendilo un po' prima di entrare, così a me lo scalda e dopo quando entri va bene, capito? Perché il diesel e deve girare prima di partire, deve scaldare. Cosa è ciò? La tostata che mi ha fatto quell'effetto lì strano. Vabbè, adesso da parecchie cose a posto. Gli ho messo la vetrina che mancava di Antonio, quando voleva venire il tirasso, sembra che stia andando, quindi non sta più difettando. Adesso aggancio il nuovo il keyboard. 2 minuti, se lo faccio girare, se no mi si inciò da dove. Eia, attenzione Marco, ci sei? Marco Condo, niente da fare, ti prendi Carlo. Eccoci, io già ci sono, sono qua, leggendo un po' di notizie al computer. Marco sicuramente aveva da fare, è entrato un attimo, ci starà ascoltando, magari è occupato. Oggi ero convinto che piovesse stasera, invece ha fatto una serata discreta. C'erano nuvole in giro, ma niente di che. Però mi sa che ha messo pioggia per il fine settimana di nuovo. Vediamo come va. Adesso i bacini dovrebbero essere belli pieni, capito? Perché di pioggia già ne stiamo vedendo in questo inverno. Dai, rispetto ad altri inverni ne ha fatto parecchia. No, è così, no. Allora, stavo buttando a mano un bel po' di acqua, ho visto. Ciao Claudio, ben sentito. Ciao a tutti, buonasera, vi stavo ascoltando Mario Fornelli. No, è così, no, Carré. Mentre ancora dai 10 ai 15 milioni di metri cubi d'acqua. Cosa pensi? Questa acquarella, ci vuole acqua forte per i bacini, no l'acqua che bagna le piante, no? Ma ancora già ne deve fare d'inverno, quando mai non riusciamo a riempirli, capito? Se piove tutto febbraio e poi pioverà anche a marzo, qualcosa anche ad aprile, io penso che comunque un po' si sono ripresi, capito, come capacità, perché già ne ha fatto di acqua le scorse settimane, è decisamente migliorata la situazione. Certo, non sono al massimo come capienza, ancora ce ne vuole di acqua per scagionare eventuali tagli e chiusure durante il periodo estivo oppure anche per l'agricoltura. Speriamo che ne faccia ancora di acqua. Ma no, qua non è affatto, come Sassarese non è affatto acqua, è così. I nostri bacini sono il Birighini del Ruinas, il Cuga è sotto i 5 milioni di metri cubi. Quindi l'acqua ti ha fatto forte, ha fatto anche danno nel medio campirano, nell'Oliastra e in quei posti lì. Lì la diga del Tiso è addirittura è fuori norma perché è oltre il livello, quindi sicuramente apriranno le paratoie e scaricheranno a mare. Ma noi qua ne abbiamo ancora da recuperare. Siamo a un buon livello, ma io penso che ancora tutto gennaio, febbraio e poi c'è le piogge di marzo che pazzerello, quelle sono anche forti, quindi potremmo recuperare il massimo del livello, ma ancora siamo sotto. Questi sono gli aggiornamenti ultimi che io seguo moltissimo queste cose perché è il mio lavoro e mi piace ancora seguirle. Buonasera a tutti e niente, siete una greffa di cocomani, il capobanda dei cocomani e Gianni Doppio Ruti, vai. Non sono capo di niente, ciao Claudio, mi hai sentito, cordialità, e niente, e così l'acqua ogni volta, ogni anno è così, c'è sempre secchezza, i bacini, speriamo che quest'anno si siano riempiti un po', e invece quel palazzo che c'è di fronte a noi ci ha fatto il pozzo, e non deve più prendere l'acqua idrica di quella che forniscono per la città. A prendere la forza e buca. fornire, perché non le avevano fatte rifornire, avevano un intervento da fare e quindi non le hanno fatte rifornire. È sceso giù a Trincurale e non le hanno fatte fornire e quindi ci siamo sentiti per telefono, questa mi ha chiesto un'informazione, le ho detto ma se io non la rivendi, vieni qua e ti ripio l'autobot. Ho toccato l'autocarro al porto e ci ho ripito l'autobot. Infatti mi voleva pagare l'acqua, ho detto se io sono problemi, metto fuoco a te l'autobot. Tu cosa c'hai il pozzo? Io c'ho il pozzo a 4 atmosfere che se non mantieni la pompa ti si brucia. Acqua potabile. Alla grande, seguita sempre, 12 mesi faccio fare le analisi, ma non ne beviamo, però a lui serviva per riempire una cisterna, capito? Quindi non ci sono problemi, ma al 100% noi non ne beviamo, ma la uso per cucinare, per lavarci, per fare di tutto e di più. Quindi il cane, 5 anni, beveva sempre con l'acqua. Sono morto di stomaco, ma aveva un tumore, altrimenti sarebbe stata ancora vivo. Era buona la mia acqua. 6 mesi fa l'ho fatta controllare, io faccio il campionamento dal punto più basso, c'è un rubinetto in basso, perché ricordatevi sempre che i campionamenti si fanno dal punto più basso del prelievo, capito? Riscaldare il rubinetto con le lanciafiamme e i batteri e poi fai il campionamento con la provetta stile, è portata in ufficio da noi, giù in laboratorio, mi sono fatto fare gli analisi. È un pochino calcarea, ma come porta di alcalinità, ma per il resto va bene l'acqua. Ma la zona nostra è tutta acqua calcarea, come dalle parti di Nirva, quella zona lì è ferruginosa, qua è calcarea. Vabbè, non voglio mettere l'acqua in rete, questa è l'acqua che arriva da Osio, esattamente dalla discesa che c'è da Osio che porta a Santa Vittoria, sarà la Zavale, capito? Quindi io andavo a prendere l'acqua sempre di quando rientravo al lavoro, è una vena che arriva lì, quindi è buonissima l'acqua, è anche dolciastra, non è male, però noi siamo abituati a bere l'acqua al rubinetto, delle bottiglie, quindi continuiamo così. Bene. L'info ve l'ho data a tutti e avanti a chi tocca, mi sembra Luca. Ciao Luca, buonasera. Ciao Flavio, ben entrato. Ma io invece per non comprare l'acqua in bottiglia ho comprato quei depuratori da sotto lavello. E non è quello a osmosi inversa che ti fa l'acqua come se fosse demineralizzata e ti leva tutte le sostanze, ma c'ha solamente un filtro per la sporcizia e credo che sia i carboni attivi e poi c'ha la lampada UVA per i batteri. E lo stesso io faccio analizzare l'acqua che già arriva di rete, che dovrebbe essere abbastanza pulita, ma le condutture sappiamo come sono. Però con questo depuratore mi fa un'acqua buona e oramai cucino e bevo questa. Sì, riconosco quegli abbattitori, chiamiamolo abbattitori perché poi non è un depuratore vero e proprio, è un filtro guardo a carboni attivi e c'è una lampada a infrarossi per l'abbattimento della batteria logica, ma Luca, è una cosa così mi fa pagata, non è niente, i veri depuratori del potabile costa la barca di soldi, poi sotto la bambina non ci stanno perché vanno messi all'ingresso dell'arrivo dell'acqua di rete, capito? Sono delle cisterne molto grandi con tutto un sistema di lavaggio, controlavaggio eccetera eccetera, e l'impianto stesso in automatico fa ogni 6 ore, quindi è un'altra cosa, quello sì ti aiuta, però insomma non è una cosa vera e propria di depuratore, un abbattitore di insomma, chiamalo come vuoi, ma è una cosa conforme. Ok, c'è anche Antonello, cos'è che c'hai con questo 140? Ti sento da poco fa lamentandosi, che tu usa vai un 140 asciugacapelli? Ho voluto usare l'asciugacapelli per fare partire l'avvento alla casa. Vabbè che a me poco non lo usavo, sono andato a schiacciare la porta e avevo uscito il radio. Dopo che ho puntato il capelli, questo il finale per circa 15-20 secondi, è partita la ventola, è partita. Allora è uscito di modulazione, di modulazione. Che l'ho sposto da dove l'ho messo, perché è vicino alla finestra. Ogni volta che apro la finestra, capito? O è da polvere, oppure il freddo con l'umidità, perché ci sono questi giorni, mi stavano prendendo le palle, adesso già sta funzionando bene. Tra l'altro male conosco la memoria. Il mondo al mondo lo sapete, l'ho sempre detto, quello è un due conversioni, sia quello che sia 80, quindi va acceso prima, cosa deve aprire, e si è acceso, io ce l'ho qua in 80 metri, ho acceso dalle 2, non c'è problema, io accendo sempre, soprattutto quello, ma gli altri no, ma quello sì, 4,40 no, per 4,40 altre conversioni, quindi automaticamente ti tira la potenza, l'avrei lasciata, quello appena l'accendi, se ce l'hai a 50 watt a caldo te ne va 10, quindi ho bisogno della sua temperatura per far sì che l'aggancio del PLL parta, altrimenti non torna in protezione, non esce, è normale, no? Tu vuoi una vita, è un guanto, tutte e quattro mi sa che te lo attirano tre, quindi sai benissimo come funziona con la radio. Va bene, cambio per Carlo. Carlo Magno, dove sei? Eccoci qua, sì, stavo ascoltando i discorsi dell'acqua. No, io bevo diciamo l'acqua in bottiglia, qua c'ho l'acqua della rete e va in un serbatoio che ce l'abbiamo interrato, però questo serbatoio andrebbe perlomeno pulito almeno ogni 2 anni eccetera, quindi vai, fidati, l'acqua la uso per cucinare, ovviamente va in ebollizione, quindi ti ammazza qualcosina che c'è, ci puoi fare la pasta e basta, sciacquare qualcosina, ti lavi, però per bere mi compro l'acqua, capito? E quello che diceva Luca, sì, con diciamo il filtro con i raggi ultravioletti c'è l'abbattimento dei batteri eccetera, poi ci sono carboni attivi, però capito, sei sempre solito a bere sempre quell'acqua, invece è bene cambiare tipi di acqua, capito, perché così i rini lavorano meglio, perché molte volte le acque sono diverse uno dall'altro e quindi anche i medici lo consigliano di non bere sempre la solita acqua per evitare la formazione anche di calcoli, perché molte acque, soprattutto a Sassari, che Sassari è su una superficie calcarea, quasi tutte le acque sono calcaree e quindi, capito, il discorso lo conosco bene. Nella casa dove abitavo prima avevamo invece il pozzo e lì lo stesso facevamo l'esame batteriologico e quello chimico tutti gli anni, ce lo faceva fare l'amministratore, e un pozzo a 120 metri di profondità e ha sempre lavorato da 50 anni e sempre sta dando acqua, quindi in quel condominio non abbiamo mai pagato l'acqua, pagavamo solo il canone di depurazione di acque reflue, capito? Perché l'acqua che tu prendi poi la immetti nel sistema fognario e quindi c'è un contatore al pescaggio dal pozzo e lì fanno i rilievi del contatore e ci mandano, però solo il canone di depurazione, poi il consumo di acqua non ne abbiamo mai pagato, capito? Quindi per me questo è il primo anno che io invece devo pagare la bolletta a Rapanoa. Capo, però sì, io ce l'ho qua a casa, ma non è che bevo solo questa, considera che passo 12 ore in ufficio e lì l'acqua la comprano in bottiglie, anzi la prendono a pedane, per cui quella qua di casa la posso bere a cena, quando ci sono a cena o un sorso la notte, ecco, a parte il sabato e la domenica, ma l'acqua già l'alterno alla grande, sono sempre fuori, a casa non mi so come mai. L'unica cosa che non dovete fare, se non credo che nessuno abbia problemi di calcoli, non usate la smeraldina con le acque Fuji, quello acqua, insomma, che sono consigliate per i reni, perché se non hai il male te lo fa venire. Io con il mio condizionatore, claro, tutti i metalli pesanti. Allora, non sai noi cosa bevevamo quando eravamo piccoli, l'acqua piovana, mi lascia da Lucanari. Ma la faceva la frizzina, l'acqua frizzina, con l'acqua del rubinetto prima. Ma prima era potabile, ora non è più potabile. E si chiamava leva VC, e c'erano le bustine VC oppure quelle della cristallina, già era poco tempo, mi ricordo un nonno che la faceva. Io mi divertivo quando mamma mi diceva prepara leva, mi veniva quando eravamo piccoli, insomma, 12 anni, 10 anni, così. Mi divertivo perché c'era una bottiglia particolare col tappo, perché una impressione aveva. Io mi divertivo quando stava salendo tutte le volte, poi l'avevo detto che su salita mi curia a mamma. Io... E la frizzina era della Ferrero, la faceva la Ferrero, la frizzina. C'era pure l'idrolettina. Sì, è vero, la cristallina, la frizzina, la cristallina. Infatti da noi, ma infatti dopo è uscito questa cosa, no? Che dicevo che io ci devo mettere la VC, non capisco perché, ma... Anche voi, anche voi del VC. Forse per quello, vabbè. Comunque le acque bisogna stare molto attenti, ragazzi, bisogna stare molto attenti perché oggi come oggi qualsiasi cosa può infastidirci, può infastidire il nostro organismo, purtroppo è così. Prima, come ha detto Gianni giustamente, anche l'acqua era molto più sana, tutte le cose, anche il mangiare era molto più sano. Adesso non si dice altro che intossicazione da quello, intossicazione da quell'altro, e che cazzo. E l'Heineken invece si può bere? Andavo alla fonte di Santa Lucia, quella dove la gente va a mettere il bidone sul rubinetto, e usciva pure la ruggine, capito, da quell'acqua lì. Eppure la facevi decantare ed era buona, era frizzante naturale. Poi c'era un'altra acqua che era sempre di fronte alla fonte di Santa Lucia, ma verso le grotte di Sant'Andrea Abriu, e lì c'è una fonte di acqua calda. Lì c'erano delle fonti termali fatte dai romani, infatti lì hanno trovato una vecchia strada romana a scavi proprio sotto le grotte, e c'è la sovrintendenza ai beni culturali adesso che lì ha bloccato tutto, e lì c'è una fontana dove tu ci vai, che ne so, anche nel mese di gennaio ti puoi fare la doccia in quell'acqua perché è calda, è acqua termale ed è leggera quell'acqua, la lasci raffreddare ed è buonissima. E tutta l'infanzia stava a bere acqua dappertutto, nelle fonti, nei ruscelli in campagna, e non mi è mai successo niente perché le acque erano pulite. Adesso è tutto inquinato, non ti puoi più fidare. Io andavo a Florina, se ne prendevo 120 litri, quando avevo lo stesso Vego, aveva la valvola come le ruote, no? Mettevi l'aria, la facevi alzare la macchina, di modo che quando caricavi poi si metteva allo stesso livello, poi la sgonfiavi di nuovo. E andavo a Florina, se la prendevo dove ci sono le cave, lì a Florina era buonissimo. Vabbè, ma Florina sì. Era un'acqua un po' particolare, un po' pesantina. Però Carlo, io quando c'era la zona di Borra, facevo Borra, Rebecco, Giave, Porto Maggiore, Semestene, Padria, eccetera, eccetera, Giave, arrivavo fino a Giave. Quando avevo 5 minuti mi caricavo già sempre nella macchina le due cassette con 10 bottiglie in una, 10 nell'altra, e andavo a Modigio a prendere l'acqua, a Modigio, capito? Ed era molto, molto buona. Che adesso non ne ho più voglia di andare, anche perché mi hanno detto che siccome si passa sopra quel fiumiciattolo in questo periodo è in piena, capito, quindi non ce la fai, non vedi i razzoloni di cemento, di vari dentro. Esatto. Ma a Bonorva ci sono diverse fonti dove prenderla, ce n'è anche una proprio sotto la superstrada, prima si fermava la gente, quella località si chiama Tilippera e c'era una fonte proprio come inizia la salita dopo Bonorva nella superstrada, sulla destra, e adesso lì però non so se si può più parcheggiare come hanno fatto la variante, però quella era un'ottima acqua, lì si fermava un sacco di gente, camionisti che lo sapevano a prendere l'acqua, se la prendevano a bidoni, capito, riempivano, scendeva anche parecchio. Sì, gli ho messo fermato una due volte, addirittura avevano messo qualcuno, aveva messo un tubo di polietilene PN12, mi pare che era PN16, per fare più, per riempire anche le bottiglie, capito, voi potete attaccare anche la pompa. Me lo ricordo. Allora, a Modigio una volta ho rischiato tantissimo, mi ricordo che avevo la Audi 4x4, era una giornata bruttissima, aveva anche nevicato lì in quella zona di Macomer, quella zona lì, e mi sono avventurato, ma se ne ha affruttato, sono anche a 4x4 e siamo andati con un mio collega. Quando siamo arrivati lì, in una frazione in secondo, sono stretto sulla destra, mi stava scivolando la ruota di davanti proprio nel passaggio verso i lastroni, finisci in acqua, capito? Fai un casino a Gesù Cristo, quindi non mi fido più. Adesso infatti se ritorno al tempo buono ci vado a prenderla perché è molto buona. E Gianni, leggermente, ma sai l'ex San Martino, quella che c'era minorale, quella e quella leggermente quella frizzante, quella leggermente frizzante, è appena appena così, no? Ma è naturale proprio dalla che questa fonte è bellissima, molto curata. Però cazzo, si vede andare l'estate, perché se trovi nel passaggio che non vedi lastroni, che c'è un po' di acqua, rischi di scenderci nel fiume. A me la San Martino è l'unica acqua che mi piaceva frizzante, perché le altre acque frizzanti non è bello, l'unica la San Martino, un po' la Santa Lucia, ma molto meno la San Martino, la usavo anche per farmi la menta l'estate, mi facevo la menta col ghiaccio, l'acqua San Martino, la Lucimora. Siamo la San Martino, adesso si riprenderà sicuramente, adesso appena chiudono tutto il casino che è successo, riprenderà sicuramente, ma l'ha preso la provincia, perché il 70% dei locali di tutto era la provincia, il 30% era della società che gestiva, ma ho fatto un buco non so di quanti milioni di euro, quindi è così. Però sì, la Santa Lucia si assomiglia molto alla San Martino, piace anche a me, però come la San Martino penso che non ce ne sia, non solo in Sardegna ma in Italia, di acqua così buona e sana, soprattutto perché è gestita dalla fonte naturale, e poi chiaramente ha messo tutto quello che va fatto. Però acqua buonissima. Tutto, apri il microfono, poi passa Antonello Pomponi a vedere se ha scaldato, se si è asciugato i capelli col fuoco. Beh, quello io ero un rappresentante che avevo tutta la provincia di Sassari, l'acqua la prendevo a metà strada tra Agius e Luogo Santo, quella strada si chiama Lo Sfossato, è un bel discesone di curve, ci sono due fontane sulla destra in direzione di Luogo Santo e c'era l'acqua che era uno spettacolo, acqua così buona non ne ho più trovato, purtroppo cambiando lavoro non sono più andato da quelle parti, ma la bevevo prima perché era il rappresentante di mio padre, e poi la prendevo anch'io e abbiamo sempre bevuto quella, buonissima. Infatti io tutta la zona dell'Angona, la Gallura, tutta la volata a Tempio, sulla Pischinaccia, quindi dove proprio c'è la fonte di Renaggio, ho girato tutto il Monte Ruglio, lì Battara, dalla zona di Battara, lascia perdere. Sì, quella che dicevo tu, ma ce n'è anche una appena più sotto, per avere a Tempio, praticamente al bivio di Bortigialas, entri lì nel bivio di Bortenendara a Bortigialas e sulla torretta sono due fontane molto molto belle, capito? Ma a Carlo, all'ingresso complesso di Bonorra, la fontana che c'era lì prima di arrivare dentro Bonorra, ma non c'è più. No, quella mi sa che hanno deviato il corso per dei lavori e quindi l'acqua non so che fine ha fatto, passerà sotto, lì era buona l'acqua lo stesso. E quella fontana la conoscevo da quando sono nato praticamente, da piccolino, perché io ci sono nato lì, eccetera. La gente andava a prendersela a bidoni, c'era la vasca dove poi si abbeveravano gli animali anche, ed era un'ottima acqua. Adesso non scende più, tu passi e c'è la vecchia fonte, ma non scende più da almeno 20 anni, capito? Tutto bloccato. Anche a Sant'Antonio di Uri l'ho presa lì. Dove già? Sant'Antonio di Uri, dove c'è quel parco giochi, all'entrata, prima di arrivare al parco giochi, non so se c'è presente dove. C'è il cimitero, c'è il parco giochi a fianco e sotto c'è una fontana, però scende un bel letto. Sì, infatti mi girava le balle proprio perché scende piano piano, ci voglio 2 ore a riempire le bottiglie. No, ma quella che sto cercando di Bonorra, all'ingresso di Bonorra era una bella fonte. Sì, infatti, una 20 anni, 18, 17 anni fa, perché io quella zona praticamente c'ero nel 2011, quindi hai pienamente ragione. E così. Va bene. Antonello Motopompa, tanto sta scaldando dopo la radio. Tanto me l'attaccava per farlo girare. E mi sa che dopo il forno adesso gli sta facendo la piastra. Tu chiedi una ciappa. Già c'era che cosa dove scongelava il pane col forno? Pirangelo. Ma che? Pirangelo, pane idraulico, e via. No, l'unica la piazza che può fare è al bicchiere, no, per il resto non ne ha fatto niente, ma sicuramente c'è qualche problema con la radio, perché non deve fare così, io l'accendo a freddo e funziona perfettamente, non è che devo scaldare, togliere il tappo e scaldare col forno. Anziché per dire dare 100 watt in SSD, PEP non me li dà, ma era 70, 60, però la radio è perfettamente funzionante, poi quando scalda c'è anche una buona ricezione, non so. Va bene, chi c'è oltre a voi? E Carlo, Gianni, Antonello, Luca, poi già, non ci ha conosciuto. C'era Marco Condo e poi, come si chiama? Danilo Snoopy. Danilo Snoopy, ma il vecchio Danilo Snoopy. Ah, ma poi l'ascolto, sta facendo dei lavori, ha detto che ci ascolta. Ah, ho capito. Sì, è entrato prima a salutare Claudio, già è lui, e lo conosceva anche Luca che ci aveva parlato. E appena negli anni 90, già era una di che non... Che non lo sentivo. E va bene, signori, io passo dall'altra parte del pianerottolo a trovare mia mamma, gli avvio la cena e così la sistemo. Se ci siete ancora ci sentiamo fra una mezz'oretta. Diversamente domani mattina alle 9 sarò dove sapete. Ciao a tutti. Ciao, ci sentiamo, dai. Buona continuazione serata. Va bene Luca, ci vediamo domattina allora. Ciccio, ciao Luca, ciao Ciccio Bello. Ui Claudio, buonasera a tutti. Ciao Luca, ci sentiamo. Ciao mamma. Ma che c'è anche quel magone di Pomponio? Sì, anche io ci sono, voi bello bene. E beh Arisio. E beh, come va? Tutto bene? Sì, si va avanti. Meglio così, sono contento. Riprendete che sto facendo la cena a Simona. Ci riprendo fra poco. Sì, io mi sposto 5 minuti che c'ho roba al fuoco, ma sono qua e vai caro. Ciao. Vabbè, sto bello. Manuele! Ha trovato le immagini, ho già, che mi arriva Manuele a casa S3 e lui mi sente, ok, con quell'antenino che c'ha e non mi intende chi tu di sosso. Secondo me la posizione, lui deve essere coperto a qualcosa, capito? Perché il franco di Sosso ci arriva bene. Io lo sento 9,5 a franco. 9,5, Franco mi arriva a 9,10 e Fondoscala in FM su 12. E a me mi sente Fondoscala in FM e S9 in AM. Immaginati tu, e sono a 50 metri uno dall'altro. È un problema suo. Lui sicuramente sì, vi sente perché avete più visibilità rispetto a me. Ma secondo me i segnali che vi dà non sono buoni, non sono reali, perché ha problemi con l'antenna. Non lo so. Io gli arrivo bene, però anche la zona, la mia, che per Sosso è favorevole, va. Per Sosso non lo vedo, ma sono avanti, mi sono di fronte. C'ho Filiedo che è appena appena mi copre, ma Sanofre per me va benissimo. Franco qua arriva fortissimo. Lui non c'è Cristo. Mi sente, ma mi sente la lontananza. Rapporto 1-10, Piazza Emanuele qua arriva S3 e mi sente, sta usando un antennino e io non lo vedo a Emanuele, sono molto molto, cioè sono distante da Emanuele, capito? È lì il problema che non riesco a capire. L'abbiamo detto di alzare l'antenna perché dice che è bassa. L'ha vista la traghetta e ha detto che è bassa come antenna. Quindi dovrebbe alzare un po' di più, magari risolve il problema. Ma se lui c'ha quell'antenna tipo Game Master, se non la tira su, non ha radio quell'antenna, non ha ricezione. E quelle antenne di senza radiali, che non hanno piano di massa, devono rimanere in alto. Capito? Voi sei libere, se tu la compri, non andrà di solo. Vabbè, non mi senso, non è che faccio la malattia io, va. Ora giusto per capire, perché se io ho la ricezione come deve essere la mia, che è perfetta in tutti i suoi punti di vista, da lui lo ricevo S7, 7 liscio, 9 quando attacca lineareto. Secondo te qual è il mio problema? Sì, ma anche io non è che lo ricevo forte, io lo ricevo lo stesso così, su 9, da 9 a 9,10 mi pare. E secondo te è un buon segnale? No, non va bene, perché ce l'hai di fronte, ti deve arrivare un bel forte, capito? A me mi arriva 7 liscio e 9 quando attacca, e lui è un ottimo segnale per me, visto le sue condizioni, anche perché c'è poca, è coperto sicuramente, però il fatto che lui non riceva è un problema suo, non mio, perché se io ti ricevo 7, da che mondo è mondo, ti do 7, mi puoi dare 5, ok, e se no mi dai 7 lo stesso, perché in proporzione, ricezione, ricezione, l'ho vista, no? Ma cazzo, a dirmi che non mi ricevi per niente, vuol dire il problema è tuo. Vabbè, non problema. Emanuele, riprendi. Sì, Acra, io ho una frusta, una frusta con la molla. Non so se te la ricordi con l'antenna di macchina, con la molla caricata. La pure avuta. Sì, l'ho avuta anch'io quella, ma va bene, la gemella di quella, però senza molla, l'ho data ad Antonio Bombo e ha migliorato tantissimo con quell'antenna. Lo sento ovunque si sposti, l'altro giorno era lì a Maccia di Laino, Rovera, coperto, perché la conosco quella zona, e stava arrivando 5,5, 5,7 qua, mentre con l'altra antenna, come scendeva, si allontanava, non lo sentivo più, capito? Perché sì, era più alta, ma non ha carica quella, è diretta, capito? Vabbè. Ok, mi allontano un attimo a controllare i fornelli, che c'è una figa a cena, se no mi scende già stasera. Carlo, riprendi? Sì, Emanuele, io non ti sento per niente, mi spiace se mi senti tu. Salutoni, ma io non, niente, ho passato anche lo squelce per vedere, ma evidentemente non è favorevole come zona questa dove sei tu, quindi vai pure, riprendi già. Io riprendo, ho visto già che è tardi, anche se non mi ha chiamato Taiso. Faccio i saluti adesso, vi saluto tutti cordialmente, grazie per il QSO, buona continuazione di serata. Io devo scendere col cane, purtroppo devo andare anche se non la giugare. Va bene, dai, ci sentiamo Carlo. Sì, va bene, Gianni, non preoccuparti, priorità al cagnolino, che insomma loro bisogna sempre accudirli, non ti preoccupare, tanto c'è Antonello, anch'io faccio qualche passaggio e poi vado anche io un po' ai fornelli, anche se dopo se sento che rientra qualcuno, già qualche altra chiacchierata me la farò, capito? Vai Antonè. Ehi, stavo controllando la casa e tutti che altro che mi sa fare. Se mi stecchi a bollire per fare più morbide. Andrà bene, andrà bene. Ok, vediamo un po' se solleviamo un po', per appena dovrebbe andare meglio. Sì, già adesso stai uscendo bene, chiara la radio, il segnale qua mi arrivi bene, Antonè, perché siamo anche vicino in linea d'aria, non ci sono problemi. Stai usando il Kenwood? Sì, al 140 sto usando. Chissà che sentiamo qualcuno, che ci ascolti quella mappa che abbiamo, che sta facendo il giro dell'Oca, cazzo. Ci mancavano solamente i russi lì dalla parte in Sardegna con la petroliera, non sapevano dove andare. E sicuramente quelli stanno aspettando qualche scambio di merce in acque internazionali, capito? E sono dei furbacchioni i russi, perché hanno l'embargo, quindi stanno aspettando qualche altra nave che magari passa e poi scambiano sicuramente cose losche. Comunque dice che c'è la marina che sta controllando, stanno anche controllando con i droni, ormai è tutto così, i droni dappertutto, anche in mare aperto. Già l'ho visto, avete qua, l'ho visto, ci mancavano solo i russi, avete attaccato a casa, siamo a posto già, siccome almeno gli avevo messo in culo a campo, gli avevo messo, proprio attaccato alla base NATO che c'è di vicino a Cagliari. Gianni è andato a portare il cane, Claudio si è spostato, è andato a fare delle cose, Luca idem, lui c'ha la mamma vicino e penso che ogni tanto farà vedere come sta, immagino sia anche una signora anziana e fa bene a seguirci la mamma. E io adesso lo stesso mi sposto un attimino, però lascio tutto acceso e sono in ascolto, Altonè, faccio un attimo di bianco, una ventina di minuti e vedo un po' dentro, così mi preparo anche io qualcosina per più tardi e niente, poi ci sentiamo più tardi, dai, tra una ventina di minuti, bianco per me. Adesso sono qua l'ascolto anch'io, tanto lascio l'apparecchio acceso, così almeno scalda e ho visto che sta funzionando la ventola, è bello fresco dietro, quindi già va bene, il papà è pazzo, gli amici. Ok, a dopo. Antonello? Send me out here.